Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I dati sull'export italiano paragonati a quelli degli altri paesi europei, le stime del Fondo Monetario Internazionale che mettono a confronto Stati Uniti ed Eurolandia, i motivi dei crolli delle borse europee, in particolare gli attacchi alle banche spagnole. Sono questi i principali argomenti di questa puntata di Economia in Europa. A febbraio 2012 le esportazioni italiane restano pressoché ferme rispetto a gennaio, segnando un incremento dello 0,1%, mentre in termini congiunturali le importazioni salgono dello 0,7%. Lo ha rilevato l'Istat, aggiungendo che su base annua l'export segna un rialzo del 7,3%, decisamente più sostenuto a confronto con il più 0,8% registrato per l'import. Un risultato che si avvicina al più 7,4% della Germania e che supera il più 5,4% della Francia. La Spagna frena con un meno 7,4%, mentre la Gran Bretagna è vicina al più 10%. Rispetto a questi dati, sentiamo il commento di Fabio Sdogati, docente di economia internazionale al Politecnico di Milano, al microfono di Sebastiano Barisoni. La prima cosa importante da dire è che questa domanda viene da paesi ad alto reddito pro capite. Quindi è vero, le esportazioni sono cresciute anche molto e di questo non possiamo che essere felici. Due parole di cautela: quelle verso la Svizzera sono cresciute essenzialmente per via della vendita di oro non monetario e poi c'è questo fenomeno nuovo che la bilancia energetica è in attivo, quindi noi stiamo facendo volume e valore sulle esportazioni anche grazie a questa situazione della bilancia energetica che invece... Sì, lei citava una notizia che è curiosa, cioè continua a aumentare il nostro export di oro verso la Svizzera. Allora, esatto. È chiaro che esportare oro alla Svizzera sembra come esportare il cioccolato alla Svizzera, no? Cioè, o ghiaccio agli eschimesi. Non è così, c'è una fuga. Siccome l'oro ha raggiunto un record storico, i metalli di base, è un oro abbastanza non pregiato, un oro abbastanza vecchio, come si dice in gergo, e quindi che va verso la Svizzera perché in Svizzera poi viene lavorato o diventa anche in alcuni casi lingotto. Oltre all'export di oro è in attivo la bilancia energetica, come mai? Questo non è facile da capire, evidentemente c'è una ripresa in atto o comunque c'è un livello di attività produttiva ben più elevato che da noi, in particolare in alcuni paesi dell'area euro, sicuramente Germania, Olanda e Nord Europa, e questo quindi ci rende favorevole la domanda di raffinato. Questo credo sia essenzialmente il problema, ma come dicevo prima è un momentino appunto strano, nel senso che se noi guardiamo le importazioni, finora abbiamo parlato di esportazioni, sono ferme, ma sono ferme con delle cose un pochino preoccupanti, perché le importazioni di beni intermedi sono cadute di quasi l'11% e i beni strumentali di oltre il 5%. Allora, questo è un segnale grave, perché questo è un segnale... Cioè sono i beni che poi noi assembliamo? Bravo, sono i beni che assembliamo e che usiamo in parte per produrre. Quindi voglio dire, uno dice ma le importazioni sono ferme, che bello, vuol dire che siamo tornati competitivi. Queste sono interpretazioni tradizionali assolutamente dignitose e van bene, però l'apparato produttivo mondiale ormai è talmente integrato che segnali forti li si legge anche guardando e forse guardando prevalentemente alla composizione merceologica, nella distinzione fra strumentali, consumo eccetera. Peraltro anche le importazioni di beni di consumo durevole, quindi frigoriferi e queste cose, sono cadute del 6,6%. Cioè lei sta dicendo, attenzione, che le importazioni si sono fermate, questa sembrerebbe una buona notizia, però si sono fermate le importazioni di quei beni, adesso non posso spiegarla tutta, ma insomma che servono alle nostre imprese per fare o il prodotto finito, e quindi beni semilavorati che vengono poi assemblati, oppure quei beni che servono a produrre altri beni e quindi servono alle nostre imprese. E che sarebbe a dire che si sono fermate le importazioni di quei beni che poi servono alla nostra produzione industriale. Non si è fermata l'importazione, voglio dire, di high tech dalla Cina o di champagne dalla Francia, no? Esattamente. Questo è esattamente l'aspetto preoccupante. Senta, sui settori, prima di salutarla, professor Sdogati, siccome lei è uno di quelli che appunto da anni lavora sui modelli produttivi del nostro paese, distretti ma non solo, sui settori oltre che per aree geografiche dove si registra la maggior tenuta? Parlo sempre di produzione industriale chiaramente, non di agricoltura. la maggior tenuta in questo momento su questi settori è non sui settori tradizionali, come piace a tanti pensare, illudersi, il Made in Italy, sai che ci sono in atto iniziative chiamate esportare la dolce vita, no? Che sono cose assolutamente fuori da ogni ragionevolezza. Sono i beni strumentali, sono le macchine utensili. Io continuo a vedere nei dati del commercio estero che là fuori c'è un mondo che domanda queste nostre macchine, macchinari, macchinari italiani. No, voglio dire, italiani. Non c'è contrapposizione tra l'esportare il lusso, lo stile di vita italiano e quant'altro. Basta non immaginare che questo paese possa mantenere la sua classe produttiva esportando solo vino, agroalimentare, cinture, scarpe, abbigliamento, perché se no non ci capiamo. No, va benissimo perché l'export del vino ha fatto 4 miliardi e mezzo di saldo nella bilancia commerciale. Va bene anche la moda, sarebbe bello anche che i marchi restassero italiani e non fossero, diciamo, preda delle conquiste francesi. Però attenzione che poi il grosso del lavoratore non lo fa, diciamo, l'alta moda, col massimo rispetto, Sempre col massimo rispetto, immagini lei se non sono contento di vedere che facciamo delle buone esportazioni, dei buoni prodotti, eccetera. Il problema essenziale è che questi sono settori, quelli che lei ha menzionato, in cui noi non potremo occupare i nostri giovani, i giovani laureati, i giovani ingegneri, i giovani qualunque tipo di giovane, perché non sono settori che domandano forza lavoro qualificata o altamente qualificata. Quindi questo è il mio problema fondamentale quando si parla di specializzazione produttiva. Voglio dire, noi abbiamo di fronte a noi, guardi, io ero il 23 marzo a Londra a incontrare i nostri alunni, è stata una sensazione stupenda, da questo paese che anch'io spesso definisco in grande difficoltà e disastrato, sono andati a lavorare in Inghilterra e hanno un successo enorme. Decine e centinaia di nostri ragazzi che guadagnano salari veri, che fanno carriere vere e sono nei settori ad alto valore aggiunto, quindi ricerca, quindi ICT, ovviamente industria della finanza, eccetera. Quindi cerchiamo di mantenere un balance, un equilibrio, evitare i trionfalismi, esportare la dolce vita, poi si scade un pochino, insomma. E parliamo adesso delle nuove stime del Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto al rialzo le stime della crescita mondiale per il 2012 e il 2013. Il PIL crescerà quest'anno del 3,5% e il prossimo del 4,1%, rispettivamente 0,2 e 0,1 punti percentuali in più rispetto alle stime di gennaio. E non sorprende se la situazione degli Stati Uniti risulta migliore di quella prevista per Eurolandia. L'economia americana crescerà quest'anno del 2,1% per poi accelerare nel 2013 al più 2,4. Per la zona euro invece il Fondo Monetario prevede una contrazione del PIL dello 0,3% quest'anno, cui dovrebbe seguire una crescita dello 0,9 nel 2013. Abbiamo commentato questi dati con Alessandro Merli, inviato delle Sole 24 Ore a Washington. Su questa cifra del 3,5% pesa una crescita nei paesi avanzati, grandi paesi industriali, che è molto deficitaria, molto bassa, come ha detto il capo economista del Fondo Olivier Blanchard, e all'interno dei paesi avanzati naturalmente pesa la situazione dell'area dell'euro, che, come ci ha detto ieri la signora Lagarde, resta un po' l'anello debole dell'economia mondiale. Ci sono ancora molti rischi, ha ripetuto oggi Blanchard, e quindi chiaramente la situazione in Europa è sotto i riflettori del Fondo Monetario. Il quale Fondo Monetario, diciamo un po' contro natura, visto sempre come il guardiano del rigore fiscale, invece dice attenzione a tutto questo aggiustamento dei conti, a questa austerità, va fatta perché i mercati mettono pressione, però è anche importante farla al passo giusto, in modo da non uccidere quel poco, in alcuni casi quel pochissimo di crescita che c'è. Naturalmente sono cifre che riconoscono le difficoltà della zona euro, non ce le stiamo neanche a raccontare e a ribadire, e questa nuova rassegna appunto dell'FMI riconosce anche di come gli Stati Uniti, e anche questo lo stiamo vedendo già da molti dati che sono diffusi da qualche tempo, di come gli Stati Uniti abbiano ripreso a marciare, anche se c'è sempre lì la preoccupazione, Alessandro, della disoccupazione, che anche in marzo l'abbiamo visto appunto nei giorni scorsi, creato meno posti di lavoro del previsto, però insomma là c'è più ottimismo rispetto ad Eurolandia. Beh, quello che dice il fondo è proprio questo, cioè c'è un po' di ripresa negli Stati Uniti sia per quest'anno che per l'anno prossimo, la previsione di una crescita sopra il 2%, quasi il 2,5% nel 2013, però non è una crescita sufficiente a ridurre in modo significativo la disoccupazione, quindi resta una situazione abbastanza bloccata. Poi gli altri problemi che gli Stati Uniti ancora in eredità dalla crisi finanziaria del 2007, 2008, 2009 sono una situazione delle famiglie ad alto indebitamento e una situazione del mercato immobiliare dove ancora le banche hanno si sono riprese molti immobili dei quali gli occupanti non riuscivano più a pagare le rate del mutuo. A pagare il mutuo, e quindi è una situazione ancora fragile, però tutto sommato, insomma, tutto relativo, confrontata con quella dell'Europa, è una situazione di relativo miglioramento. Certo, allora, situazione fragile, tu dicevi, andiamo invece proprio alle situazioni fragili in maniera conclamata. Il nostro paese, il Fondo Monetario Internazionale dice che nel 2012 il PIL nel nostro paese si contrarrà dell'1,9%, molto di più di quanto ha stimato la Banca d'Italia, che dice -1,5%, ma soprattutto, questa ho notato anche sui TG nazionali italiani, è la notizia alla quale viene data la maggiore enfasi. Per il Fondo Monetario Internazionale nessun pareggio di bilancio l'anno prossimo, Alessandro. Credo che questo sia abbastanza scontato. C'è stato adesso un incontro con Carlo Cottarelli, che è un italiano e che è responsabile del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario, e dice sostanzialmente questo fatto deriva dalla mancata crescita, quindi, o dal fatto che quantomeno il Fondo Monetario preveda una crescita dell'economia più bassa di quanto non prevedono altri, comprese le stime ufficiali. È chiaro che se la crescita è inferiore anche il deficit a quel punto si amplia. Il Fondo Monetario non è convinto che si raggiunga il pareggio di bilancio nel 2013, anzi è convinto il contrario. Al tempo stesso però mi sembra che sia Blanchard, il capo economista, sia Cottarelli non ne facciano un dramma, nel senso che riconoscono che questo è l'effetto del ciclo economico negativo. Anzi, Cottarelli ha ricordato che se si guardano le cifre depurate dell'impatto della mancata crescita, cioè del ciclo economico, l'Italia è uno dei paesi in cui la situazione fiscale è migliore fra tutti i paesi avanzati, credo con la fra tutti i paesi dell'Eurozona, credo con l'eccezione solo di Germania e Finlandia. Quindi tutto sommato c'è un riconoscimento dello sforzo fatto e questo mancato obiettivo, diciamo, il mancato raggiungimento di questo obiettivo è dovuto al fatto che l'economia cresce di meno. Quindi il Fondo Monetario non è che chieda all'Italia di fare un ulteriore sforzo fiscale, perché capisce che questo a sua volta avrebbe un impatto sulla crescita, quindi potrebbe generare un anche perché i provvedimenti già presi ne hanno a sufficienza. La giornata di mercoledì 18 aprile è stata segnata da una nuova pioggia di vendite sui listini azionari europei, vendite che hanno avuto di nuovo come epicentro Madrid, che sta raccogliendo gran parte delle preoccupazioni per la situazione del vecchio continente. Come mai questo attacco alle banche iberiche e quali contraccolpi ci sono per l'Italia? Sentiamo l'analisi di Walter Riolfi del Sole 24 Ore ai nostri microfoni proprio mercoledì 18 aprile. Ci sono due problemi, un problema generale che è gravissimo e per la prima volta il Fondo Monetario ieri l'ha ammesso, cioè la possibilità che l'euro vada a quel paese, che si disgreghi. Problema generale. Problema contingente, i problemi della Spagna o dell'Italia, soprattutto della Spagna. Le banche spagnole potrebbero trovarsi davanti a perdite veramente massicce sull'immobiliare, sul mercato immobiliare. C'è qualche economista stima che ci siano circa 380 miliardi di eccesso di bolla rispetto ai prezzi sul mercato immobiliare spagnolo, e questo si tradurrebbe nelle banche che hanno finanziato pesantemente il mercato delle case, comunque delle costruzioni in Spagna, con delle perdite molto forti, per cui urgenza di ricapitalizzare questo, unito a un'economia che non va, tra l'altro quella spagnola molto meno di quella italiana, essendo per larghissima parte, buona parte, doppio il triplo rispetto a quella italiana, legato al mercato immobiliare. Quindi la situazione spagnola diventa veramente incandescente. Poi non c'è molta differenza nei risultati, perché per esempio negli ultimi due giorni il rendimento dei titoli spagnoli è addirittura sceso, è calato di 20-25 non nella di ieri, però, perché il mercato no rendimento di mercato, rendimento di mercato, cioè in due sedute, quindi è calato forse perché c'era stato un eccesso, mentre quello italiano è aumentato. La Spagna è sui massimi, l'Italia non è ancora sui massimi, però non cambia molto, perché se si scommette sulla disgregazione dall'euro è molto più comodo fare la scommessa contro l'Italia, che è la porta più, la porta principale a questo punto di ingresso, appunto per abbattere la costruzione dell'euro, no? E anche perché la Spagna già i fondi, per esempio quelli del fondo ESM o il fondo EFSM, eccetera, stabilità sono insufficienti, sarebbero insufficienti per salvare la Spagna, figuriamoci per salvare l'Italia. Quindi se la scommessa è la disgregazione dell'euro, tanto vale prendere l'autostrada dell'Italia, no? Che non la strada provinciale della Spagna. E quindi noi soffriamo tanto quanto loro. Per quanto tempo ancora dovremmo abituarci a commentare giornate così altalenanti? Quale potrebbe essere uno stop positivo o completamente negativo rispetto a tutto quello che stiamo vedendo da qualche tempo a questa parte? Allora, due. I politici europei decidono di cambiare rotta, specialmente quelli tedeschi, cominciano a ripensare un'unione, a ripensare alla solidarietà, eccetera, se vogliono tenere in piedi la baracca dell'euro. Due, finiamo l'agonia e disgreghiamo l'euro. E quindi sarebbe quale prospettiva ti convince di più? Perché tu non brilli sempre per ottimismo, ti conosciamo bene. Non lo so, l'ho convinto. Diamo ancora un po' di fiducia alla politica? Diamo ancora fiducia. Perché la politica nazionale, se noi guardiamo l'Italia, per esempio, ha dimostrato di aver fatto dei grossi passi in avanti rispetto a 3-4 mesi fa. I politici europei molto meno. Molto meno. E anche per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.